Non è mio desiderio creare difficoltà per il piacere di risolverle. Ed è del tutto impossibile che migliaia di figli di Dio zelanti usino l'espressione cristiano, avendone realmente afferrato il significato più completo. Ma il linguaggio umano è così potente che il continuo uso errato di una sola parola può facilmente portare a tutto un pensiero inesatto. Se vogliamo afferrare la conoscenza di una verità, dobbiamo verificare che sia tanto semanticamente che teologicamente corretta. Uno dei grandi evangelisti e riformatori che hanno segnato la storia del mondo religioso protestante è stato Giovanni Wesley, padre del metodismo. Nacque il 17 giugno 1703. Nel 1725 fu ordinato diacono. A 23 anni fu nominato tutore, fellow dell'Università di Oxford e presbitero nel 1728. Secondo la sua testimonianza, i primi 10 anni della sua vita li visse accettando gioiosamente gli insegnamenti religiosi che gli erano trasmessi. I 6 o 7 anni successivi li trascorse studiando, diventando diligente più di tanti altri. Dedicava ore alla meditazione, leggeva la Bibbia e i libri religiosi, andava in chiesa, recitava le preghiere, digiunava 2 volte la settimana e visitava i poveri, gli ammalati e i carcerati, regolarmente. Alla domenica presiedeva almeno a 3 culti, di pomeriggio aveva il catechismo per i bambini, la sera teneva una riunione in casa sua. Predicava il Vangelo, annunziava la salvezza per fede, tuttavia, come egli testimoniò, aveva fede soltanto in Dio, ma non una fede vera e vivente. Solo il 24 maggio 1738, a 35 anni, passò da una fede vaga in Dio ad una fede in Cristo per la salvezza. Fino a quel giorno era stato un religioso, ma non era un cristiano. Quando consacrò la sua vita a Gesù Cristo, si pose la domanda: chi è veramente un cristiano? Perché, come egli scrisse, si è così a lungo abusato di questa definizione, che urge mostrare con esattezza a chi questo titolo spetti davvero di diritto. Per Wesley il cristiano è colui che è riconoscente verso Dio, colui che è continuamente dominato dal senso della sua dipendenza dal datore di ogni bene, colui che ama il prossimo disinteressatamente, che è in pace con tutti. Felice nella conoscenza che un Dio esiste, non è torturato dalla malizia, non è schiavo dei piaceri dei sensi. Non cerca la lode, non teme il bisogno, il dolore e la morte. Dal tempo degli apostoli in poi la Chiesa si è chiesta chi è un vero cristiano. Le risposte, nel corso dei secoli, sono state tante e varie a seconda del momento storico in cui viveva la Chiesa. Anche Wesley ha dato la sua definizione su chi fosse il cristiano e la sua analisi rispecchia la quasi totalità del pensiero del credente di oggi. Ma Wesley non ha centrato la risposta. Anzi, essa è deviante e non stimola a diventare cristiano chi non lo sia. Desidero quindi chiarire chi è un cristiano. Con queste riflessioni non intendo giudicare se la persona sia perduta o salvata, perché solo Dio conosce quelli che sono suoi. 2 Timoteo 2,19. Desidero solo definire l'identità del cristiano. Chinon-Christiano. Gli uomini vengono spesso divisi in 2 grandi gruppi, i credenti e gli atei. Ma questa suddivisione non corrisponde alla realtà, perché tutti sono credenti. Ci è chi crede in un creatore, in un supremo, in un'entità superiore, e chi invece crede che questo essere non esista. Anche l'ateo dunque crede. Ha una fede al negativo, cioè non crede, oppure per dirlo diversamente crede che Dio non esista. Anche questa è fede. Tutti gli uomini quindi sono credenti. Anche se tutti gli uomini sono credenti, non tutti sono cristiani, come non tutti sono musulmani, buddisti, cattolici o protestanti. Questa diversità di fede è caratterizzata da una peculiarità che deve distinguere dagli altri. Se un musulmano, per essere tale, deve credere e professare una fede diversa da quella di un cattolico o buddista, altrimenti non è più musulmano, così, ed è cristiano. La domanda chi è un cristiano non è dunque superflua. La risposta sembrerebbe ovvia, ma non lo è. Prima di rispondere a questa domanda è necessario chiarire chi non è un cristiano. Non è cristiano, colui che appartiene a una religione, cattolica, protestante, ortodossa, eccetera. La religione non ha mai salvato nessuno. Non è cristiano colui che è religioso. Saulo da Tarso era religioso, ma non cristiano. Non è cristiano colui che è stato battezzato da neonato. L'apostolo Paolo è stato mandato da Dio non a battezzare, ma a evangelizzare. Il battesimo non salva e non fa diventare cristiani. Non è cristiano colui che ha fede. Abbiamo considerato che tutti hanno fede, ma non sono tutti cristiani. Non è cristiano colui che crede in Dio. Gli ebrei credono in Dio e non sono cristiani. Un vero ebreo si offenderebbe se fosse chiamato cristiano. Non è cristiano colui che crede in Gesù. I musulmani credono che Gesù sia un profeta, gli ebrei lo riconoscono come un grande uomo, ma non per questo sono cristiani. Non è cristiano colui che accetta la Bibbia come parola di Dio. Milioni di protestanti credono nella parola di Dio, senza per questo essere cristiani. Wesley ha predicato per molti anni la parola di Dio, anche quando non era cristiano. Non è cristiano colui che è convertito ed è stato battezzato secondo il comandamento di Gesù. Milioni di persone hanno realizzato tutto questo, senza essere cristiani. Non è cristiano colui che professa di aver accettato Gesù come il suo Salvatore e Signore. Vi sono milioni di persone che hanno una simile fede, senza per questo essere cristiane. È vero, un cristiano possiede queste caratteristiche, ma non sono sufficienti per farlo diventare un LAPERSONADGSU. Non è facile, dunque, essere un cristiano, anche perché non vi è nulla di più naturale per noi esseri umani che sbagliarci e illuderci. Tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, e il campo religioso è uno dei più esposti all'errore. Spesso chi professa di credere in Cristo ha una vernice di cristianesimo, una patina di moralismo e di perbenismo. In questo tempo di confusione e pluralismo religioso, solo un'affermazione di Gesù è sufficiente per rispondere al nostro interrogativo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù ha parlato come nessun'altra persona. Nessuna riflessione dei più grandi filosofi dall'antichità a oggi può eguagliare quest'unica affermazione. Gesù sostiene di essere la risposta ai tre grandi interrogativi dell'umanità. Qual è la via che porta alla divinità? Dove si trova la verità? In che cosa consiste la vita eterna? A questi interrogativi Gesù non ha risposto indicando qualcuno o qualcosa, ma additando se stesso. Egli si è definito l'unica strada che porta a Dio, la sola verità, l'unica vita eterna. Nessuno ha mai parlato in questi termini. Come se non bastasse questo estremismo, Gesù ha aggiunto che nessuno poteva venire al Padre se non per mezzo di Lui. In definitiva, Gesù si è dichiarato Dio. Posto di fronte a queste affermazioni, l'uomo può accettare o rifiutare, ma non discutere. Nel momento in cui discuti, non sei un cristiano. Nel momento in cui relativizzi, non sei un cristiano. Un cristiano è colui che crede che Gesù sia Dio. Non si può affermare che Gesù ha insegnato una morale sublime e poi rifiutare di prendere sul serio le sue dichiarazioni su se stesso. Vi sono milioni di persone che dichiarano di credere in Gesù, ma non credono alla sua divinità, alla sua unicità, alla sua radicalità, al suo totalitarismo. Tra gli esseri umani, Gesù non si confronta con gli altri, ma si contrappone a loro. Egli è unico, unico, come è unico Dio. DOMANDEDIVERIFICA. Per comprendere se sei veramente un cristiano è sufficiente che tu risponda alle seguenti domande. Credi veramente che solo mediante Gesù si può avere comunione con il vero Dio? Credi veramente che ogni persona religiosa, cattolica, protestante, ortodossa, buddista, musulmana, eccetera, la quale invochi una divinità che non sia Gesù, è nell'errore? Credi veramente che la vita eterna sia Gesù e che colui che non ha Gesù non ha la vita eterna? Credi veramente che nessuno possa venire al Padre, cattolico, protestante, ortodosso, buddista, musulmano, eccetera, se non per mezzo di Gesù? Credi veramente che Gesù è Dio fattosi carne? Se rispondi sì a questi interrogativi e vivi di conseguenza, sei sulla strada giusta. Ogni credo che non domina chi lo professa non è un vero credo. Vi sono milioni di persone nell'ambito cristiano che pur, essendo bravi credenti, esempi di fede, di amore, di santità e di giustizia, non sono dei cristiani. Essi credono in Gesù, leggono la Bibbia, pregano Dio, ma non hanno accettato l'esclusività di Gesù e il suo messaggio radicale. Essi confessano che Gesù è il loro Salvatore e Signore, credono che sia la via, la verità, al vita, ma non credono che Egli sia l'unica via, l'unica verità e l'unica vita, e che nessuno, proprio nessuno, viene al Padre se non per mezzo di Lui. Per questi credenti, l'importante è credere in Dio. Ma anche i demoni credono in Dio e tremano, però non sono cristiani. Per questi credenti l'importante è essere sinceri. Ma la sincerità non ci evita l'errore, né ci fa diventare cristiani. Anche l'apostolo Paolo era sincero, ma perseguitava i cristiani. Per questi credenti l'importante è invocare Dio. Anche tutti i religiosi invocano il loro Dio senza per questo essere dei cristiani. Per questi credenti l'importante è vivere in pace e trovare un certo riposo in Dio mediante un atto di fede. Ma milioni di persone raggiungono questo obiettivo anche senza Gesù e senza essere cristiani. Per questi credenti l'importante è credere in Gesù. Che sia Dio o no, è una questione relativa. Ma ebrei, musulmani, testimoni di Geova, buddisti, induisti, credono in Gesù e non sono cristiani. Per questi credenti, credere all'unicità di Gesù è fanatismo. Se il fanatico è colui che è intollerante ed esclusivista, anche chi non tollera l'unicità di Gesù è fanatico e, in più, non è cristiano. Essere esclusivista può fare paura, ma l'esclusivismo non ha nulla a che fare con la questione del giusto o dello sbagliato. Affermare che 2 più 2 fa 4 è un'affermazione molto esclusivista. 2 più 2 infatti non fa 5. Inoltre, tutte le religioni del mondo fanno affermazioni esclusiviste, perché contraddicono altre religioni. In modo particolare per quanto riguarda la loro concezione su Dio. Gli ebrei e i musulmani sono unitari. Alcuni indù sono panteisti. I buddisti non sono né politeisti, né panteisti, né atei. Molti credenti amano la tolleranza a spese della verità, ma dimostrano una notevole intolleranza verso tutto ciò che considerano intollerante. FONTISTORICHE. Lo storico Luca ci informa che i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani per la prima volta ad Antiochia. Dall'apostolo Pietro possiamo comprendere che questo nome era dispregiativo e alcuni si vergognavano di essere chiamati così. Perché i primi discepoli di Gesù furono disprezzati come cristiani? Perché i primi discepoli di Gesù furono perseguitati e massacrati? Non certamente perché avevano una condotta immorale. Anzi, essi erano d'esempio nella società, al punto che amavano i loro nemici. Non era neppure perché avevano un credo o una fede nati di recente. La fede dei primi cristiani aveva le radici in quella giudaica. Tanto è vero che all'inizio essi si trovavano nel Tempio. Non furono i cristiani giudei a lasciare l'ebraismo, ma furono i giudei a cacciarli. La spiegazione è una sola. Avevano un messaggio radicale, estremista, che si basava sulla divinità di Cristo, Gesù uomo, e per questo erano chiamati cristiani. Come i credenti del XV secolo furono chiamati protestanti per la radicalità del loro credo e le proteste contro il cattolicesimo, come i metodisti, furono chiamati tali per le loro regole metodiche, così ebbe origine il nome dei cristiani. Il fulcro della loro fede e dell'obbedienza era Gesù Cristo, per loro l'unica divinità da venerare, adorare e professare. Scrisse uno storico, durante il periodo iniziale della sua diffusione, il cristianesimo non venne mai a compromessi con le religioni dei luoghi in cui faceva la sua apparizione. Nessun'altra religione fino a quel momento conosciuta, a eccezione del giudaismo, aveva mai affermato di essere la sola religione vera, né aveva tentato di soppiantare le altre religioni nelle nazioni in cui si presentava. Ogni altra religione riconosceva gli dèi delle altre nazioni come dèi del posto e di quel popolo, e non cercava di rovesciarli. E i fedeli di altre religioni non ricusavano di adorare dèi stranieri, se l'occasione lo richiedeva. Pervenuto al dominio delle terre bagnate dal Mediterraneo, il governo romano non interferì mai nel culto delle divinità locali dei diversi paesi, ma insistette solo nel far accettare come divinità accanto a quelle già esistenti l'imperatore romano. I primi cristiani rifiutarono di compiere sacrifici davanti alla statua dell'imperatore o di adorarla. Sarebbe stato facilissimo per loro procacciarsi l'immunità dalla persecuzione, purché avessero rinunziato alla pretesa che il cristianesimo era la sola vera religione, o avessero accettato di compiere un atto puramente formale nel culto reso alla statua dell'imperatore. Non avrebbero rinunciato a nulla del loro culto, e la sola cosa che avrebbero dovuto fare sarebbe stata quella di aggiungere agli altri riti e cerimonie il culto dell'imperatore. Ma i primi cristiani compresero che se fossero scesi a compromessi su questo punto, avrebbero fatto dei compromessi in ogni cosa che faceva del cristianesimo la sola vera e valida religione. E si rifiutarono, perciò, di venire a patti con le altre religioni con le quali entravano in contatto, ed esigevano da coloro che accettavano il cristianesimo di abbandonare ogni altro culto che non fosse quello del Dio Trino. Proprio per questo, le chiese cristiane vennero considerate focolai di sedizione e si cominciò a trattarle come tali. La maggior parte della persecuzione iniziale contro i cristiani è attribuita al fatto che furono sospettati di opporsi al dominio romano. L.U.N.I.C.T.A.D.I.G.E.S.U. Il primo credo dei cristiani era «Gesù è il Signore». Con questa affermazione essi intendevano attribuirgli il nome proprio della divinità di Israele, del Dio vivente, Yahweh, così come si è rivelato a noi nel mondo e nella storia. In tal modo i primi cristiani sostenevano che Gesù Cristo era il solo oggetto di fede e di culto, ponendolo allo stesso livello di Dio. Se Gesù è Dio, o meglio, l'unico Dio vero, 1 Giovanni 5:20, è evidente che tutte le altre divinità erano ritenute fasulle o demoni. Nessuno può definirsi cristiano se non considera Cristo la pietra d'inciampo e la pietra angolare nel campo della fede. Cioè, se non divide il problema religioso in due, da una parte Gesù Cristo, Dio fatto uomo, il quale è la via, la verità e la vita, dall'altra parte tutte le altre fedi che portano allo smarrimento, all'errore e alla bentua. Quando i primi cristiani confessavano che Gesù è il figlio di Dio, non potevano che trovare opposizione. I giudei accettavano l'unione della natura divina con quella umana, ma che Dio diventasse uomo era per loro come lo è oggi. Per i non giudei che Dio assumesse un corpo era pazzia, perché nel paganesimo solo un uomo poteva diventare Dio e non viceversa. Per questo Paolo fu costretto a scrivere ai Corinzi: «Noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Se la parola di Cristo non è per te l'unica autorità, non sei un cristiano». Un cattolico che ha come autorità la Sacra Scrittura, sì, ma anche la Sacra Tradizione e il Magistero della Chiesa, al quale è obbligato ad un'irrevocabile adesione di fede, non è un cristiano e non può esserlo finché Gesù non diventa per lui l'unica fonte autorevole in questioni di fede e morale. Un evangelico che crede in Dio, legge la Bibbia, prega, ma Cristo per lui non è l'unica risposta al problema religioso e non è l'unica via per accedere a Dio, non è un cristiano. Un protestante che ritiene ogni professione religiosa valida per accedere alla salvezza dell'anima non è un cristiano, finché Cristo per lui non diventa l'unico mezzo di salvezza. Se ritieni che Cristo non sia l'unica risposta al problema della tua anima e quella del tuo prossimo, non sei un cristiano. Gesù Cristo non può essere collocato nel pantheon degli dèi. Gesù è l'unico che è morto per i peccati degli uomini, 1 Timoteo 2:6. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, 1 Timoteo 2:5. Gesù è l'unico nome, mediante il quale l'uomo può essere salvato, Atti 4 e 12. Gesù è l'unico cibo spirituale per la salvezza, Giovanni 6 e 48. Gesù è l'unico che può illuminare le tenebre dell'uomo, Giovanni 8 e 12. Gesù è l'unico che conosce il Padre e può farlo conoscere, Matteo 11 e 27. Gesù è l'unica via per andare in cielo, Giovanni 14, 6. Gesù è l'unica porta per entrare in cielo, Giovanni 10, 7 a 9. Gesù è l'unico sacrificio valido per la salvezza dell'uomo, Ebrei 10, 22, 28. Gesù è l'unico maestro, Matteo 23, 8. Gesù è l'unica guida, Matteo 23 e 10. Gesù è l'unico che si è dichiarato Dio, Giovanni 8 e 58. Gesù è l'unico vero sommo sacerdote, cioè la massima autorità religiosa, Ebrei 4 e 14. Gesù è l'unico capo della Chiesa, Efesini 1 e 22. Gesù è l'unica pietra angolare della Chiesa, Efesini 2 e 20. Gesù è l'unico che ci mette in contatto diretto con Dio, Ebrei 10, 19 e 22. Gesù è l'unico che intercede per i cristiani, Romani 8 e 34. Gesù è l'unico avvocato che difende i cristiani davanti a Dio, 1 Giovanni 2, 1. Gesù è l'unica persona da predicare, Galati 1, 8. Gesù è l'unico risorto vivente in eterno, Luca 24, 6. Gesù è l'unico che è salito in cielo, Giovanni 3, 13. Gesù è l'unico che deve tornare per regnare sulla terra, Atti 1 e 11. Gesù è l'unico giudice dei vivi e dei morti, Atti 10 e 42. Gesù è l'unico che ha in mano la sorte della nostra anima, Matteo 10, 32 e 33. Gesù è l'unico che dà la vita eterna, Giovanni 10 e 27. Gesù è l'unico che perdona e può perdonare i peccati, Luca 5.24. Cristo non è un accessorio, ma il cuore pulsante stesso del cristianesimo. Il cristianesimo è Gesù. Se il cristiano ha il dovere di essere tollerante, cioè di manifestare comprensione, tatto, grande pazienza, con chiunque contesti la verità, egli diventa però intransigente quando si tratta dell'unicità di Gesù. Mentre gli insegnamenti di Gesù sono assolutamente universali e aperti a tutti, senza pregiudizi razziali, la persona di Gesù non si contratta. Il messaggio dei cristiani di oggi ha perso la sua originalità. Quando il Vangelo è accettato in massa, o la predicazione ha qualche lacuna, o gli ascoltatori hanno compreso male, una vera fede in Cristo è in antagonismo con l'opinione pubblica, è in antitesi con il relativismo e con la religiosità. Oggi si insegnano la paternità universale di Dio e la fratellanza umana. Si insegna che l'importante è avere fede. Ma il cristianesimo non permette compromessi. I cristiani di oggi hanno paura di essere derisi, di andare controcorrente, mentre i primi cristiani si vantavano della croce e del fatto che il loro maestro fosse stato crocifisso. Solo i traditori, gli schiavi e i peggiori criminali venivano crocifissi. Ciò significa che, dovunque arrivasse il cristianesimo, non appena diventava noto che il suo fondatore era stato crocifisso, greci, romani e giudei non potevano evitare il pregiudizio a tale riguardo e, di conseguenza, lo consideravano con disprezzo e derisione. Gesù Cristo ha la pretesa di essere l'unica verità. Se tu hai paura di essere deriso nell'affermare questo, il cristianesimo non fa per te. Se segui Gesù devi predicare questa pretesa della sua unicità. L'intransigenza dottrinale cristiana su Cristo è una virtù. Se per te non lo è, sei solo un credente, ma non sei un cristiano. Il cristiano non è colui che crede molte cose su Gesù, che Gesù sia un profeta, un maestro di morale, un santo, ma è colui che crede in Gesù e a Gesù oltre che a tutto quello che lui ha detto. Un cristiano crede che di essere perduto per nascita è che solo un atto di fede nell'opera sostitutoria, unica e sufficiente di Gesù Cristo lo possa salvare, perché egli è l'unico Dio fatto uomo. Gesù ha parlato in modo tale da non lasciare la possibilità di formarsi un'opinione personale su di lui. UNASCELTIAINVITABILE. Leggo spesso articoli, nei quali si denuncia che la Chiesa di Gesù Cristo sta diventando sempre più mondana, sensuale, perversa e fredda. Pastori, anziani, conduttori si lamentano perché sono sempre meno coloro che vogliono ascoltare la verità. Essi si interrogano sul perché di questo atteggiamento della Chiesa e, spesso, lo individuano nella mancanza di amore, di zelo, di consacrazione. Molto probabilmente ciò è vero. Ma perché i predicatori, gli insegnanti, i conduttori di Chiesa non si interrogano anche sul loro messaggio, sul loro insegnamento? Non sarà forse perché il messaggio della Chiesa del XXI secolo è difettoso rispetto a quello dei primi cristiani? Quando Saulo da Tarso si arrese alla signoria di Gesù che gli era apparso sulla via di Damasco, episodio nel libro degli Atti, leggiamo che appena ebbe riavuto la vista, dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio, Atti 9:20. Gesù ha detto di essere Dio. La sua testimonianza non è negoziabile e lascia solo tre possibilità. La prima è che la pretesa di Gesù fosse falsa e quindi lui sapesse di mentire. Questo farebbe di Gesù il più grande bugiardo della storia e un ingannatore, perché egli avrebbe chiesto alla gente di abbandonarsi completamente alla sua menzogna. La seconda possibilità è che la sua pretesa fosse falsa, ma che egli non lo sapesse. In altre parole, Gesù ingannava se stesso, era uno psicotico o forse era posseduto da un demonio. La terza possibilità è che Gesù Cristo dichiarasse la verità e, perciò, egli è veramente Dio. Se riduciamo Gesù Cristo alle proporzioni di un uomo, egli cessa immediatamente di essere un uomo onesto. Dopo 2000 anni di storia, noi uomini possiamo anche farci un'immagine sbagliata di Gesù. Ma i suoi contemporanei hanno per sempre avallato le credenziali della sua divinità. Lo hanno riconosciuto come Dio i discepoli increduli, i nemici, i demoni, Satana, gli angeli. Gesù è stato l'unico giudeo che i giudei abbiano adorato come Dio, l'unico giudeo al quale i giudei abbiano rivolto preghiere come a Dio. L'unico giudeo, riconosciuto e predicato come Dio, l'unico essere umano a non aver mai commesso un peccato o ad averlo confessato. I suoi contemporanei, sia amici sia nemici, non hanno trovato in lui nessuna colpa. Gesù non è vissuto come un santo, ma come Dio tre volte santo. Gesù non è stato crocifisso come un uomo di Dio, ma come Dio che si è fatto uomo. Se mai un uomo è stato Dio, o Dio è stato uomo, Gesù è stato ambedue, Byron. Noi possiamo essere salvati soltanto da Dio stesso. Se Gesù è solo un uomo, un bugiardo, un megalomane, siamo ancora nei peccati perduti, separati da Dio. Dio si è fatto uomo. Di fronte a questa ineffabile e incomprensibile verità, bisogna più credere che ragionare, più adorare che spiegare, più ringraziare che penetrare, più amare che conoscere, più umiliarsi che parlare. UNPERICOLOINEVITADLE. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, è una profezia a mio avviso traumatica, la sentenza che Gesù emetterà in merito a dei credenti. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo, cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. ed essa è caduta, e la sua rovina è stata grande. La sentenza di condanna di Gesù non è rivolta a degli atei ma a persone religiose. Il verdetto di condanna di Gesù non è rivolto a persone religiose qualsiasi, ma a coloro che credevano in Lui. La sentenza di condanna di Gesù non è rivolta a dei credenti pigri inattivi, ma a coloro che predicavano nel suo nome e facevano miracoli. L'arbitrato di Gesù ci lascia senza fiato, definisce questi credenti operatori di iniquità, perché non hanno mai acquisito la presenza di Gesù come l'unico Dio e l'unico Signore della loro vita. Si può, dunque, essere credenti ma andare all'inferno. L'errore di questi credenti consisteva nel non aver costruito la loro fede sulla roccia, cioè su Cristo Gesù, quale figlio di Dio. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere». Matteo 16. La pietra miliare, angolare, sulla quale è costruita, edificata e si mantiene la Chiesa è Gesù, il Figlio del Dio, vivente e vero. Gesù Cristo non ha fatto riferimento ad altre dottrine sulle quali egli edifichi la Chiesa, ma sulla sua divinità. Riconoscere questa verità ci identifica con la fede dei primi cristiani e ci evita l'apostasia, a cui tutto il mondo sta andando incontro. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. 1 Giovanni 2. La prova dottrinale di chi si professa cristiano concerne la sua valutazione della persona di Gesù. O Gesù è l'unico Dio fatto uomo, l'unico che può salvare o perdere, l'unico che può essere adorato, invocato, servito, l'unico che può essere predicato, o diversamente, si è solo dei credenti. Credenti perduti. Chi nega la divinità e l'unicità di Gesù non conosce e non può conoscere il Padre, perché Lui è il solo a dare agli uomini la rivelazione di suo Figlio Gesù il Cristo. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Nella parola di Dio leggiamo che chi crede e accetta Gesù Cristo quale il Signore e il Salvatore della propria vita, diventa figlio di Dio. Non troviamo una sola affermazione nella Scrittura che chi crede in Gesù di Nuovo Testamento prima un cristiano. Eppure, questo nome era ben conosciuto al tempo dell'Apostolo Paolo. La ragione è perché l'espressione figlio di Dio è riferita all'essere, mentre il sostantivo cristiano è riferito al divenire. La stessa differenza che passa tra il termine santo e discepolo. I santi sono tutti coloro che sono stati giustificati per la fede in Cristo. I discepoli sono tutti coloro che seguono Gesù Cristo. Il primo termine si riferisce all'essere, il secondo al cammino. Il cristiano quindi è colui che ha una fede specifica, che lo distingue da ogni altra persona religiosa. Chi non crede che Gesù sia Dio, il Signore, Yahweh, né alla sua unicità,

che si ritenevano cristiane e non lo erano. Egli ha lasciato un'affermazione lapidaria e consolatrice, che varca la soglia del tempo e che porto nel mio cuore. Prego perché possa rimanere scolpita anche nel tuo intimo, per condizionare la tua vita in modo tale che, se non lo sei, tu diventi cristiano e viva come tale. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore, 2 Timoteo 2,19. Dunque è vero che solo Dio conosce quelli che gli appartengono, ma è altresì vero, deve anche odiare le erbacce. Su queste due verità basilari poggia la fede del cristiano.